ho le telecamere di sorveglianza che praticamente si accionano al buio quando passa qualcuno, magari c'è un gatto a casa. Quelle volte che passa, perché c'è e non c'è. Quindi magari quelle volte che passa mi andavo la telecamera e mi chiamo tutto di tutto. Non lo so, devo valutare, però ripeto, faccio fatica a capire quello di tutto. Sì, Arturo, sì, ho capito. E infatti io per essere certo, adesso mi sto ascoltando io, ossia che dipendeva da me, invece no, io sto uscendo discretamente di lì, dai, non dovrei avere nessun problema di trasmissione. Evidentemente è qualcosa che c'è lì da te che non riesci ad individuare, ma prima o poi lo troverai il modo da cosa dipende questo particolare qua. Giù lo sai cos'è? Che io comunque in campagna ci vengo solo il fine settimana qualche volta, adesso perché mi sto trattenendo 10 minuti tra un po' da quando sei che via, però capito, quindi non mi sono mai accorto, al buio non l'ho mai modulato perché d'estate a quest'ora è ancora luce. Sarà quello che avete fatto interferenza, sei sicuro? No, l'ho staccato e la fa la stessa cosa, uguale. Come lo sta attaccato? Se alle 5 circa, come l'hai attaccato? Attaccato adesso vedi che è spento. Adesso sì che... Questo non è sempre spento, hai capito? Ho fatto le prove, no, non è tu. Se guarda lì, adesso praticamente vedi. Guarda. Sì. Vedi? Così. Adesso sei quasi 9:20, ti puoi immaginare, all'ultimo scatto avete. Per cui, vabbè, sì, che ci sia un disadattamento, visto e considerato, anche se non lo usi, che è spento. Basta anche a scollegarlo, togliere praticamente i PL a collegare diretto, non lo fa lo stesso, no? Ma lo fa per tempo, che lo accendi, dura quegli attimi e poi si spegne, poi di nuovo riprende. Ho capito, e allora è un'interferenza che hai lì in zona, che si ripercuote sulla tua radio, sicuramente è così. Perché se te lo fa al vicinato, che so io, un po' sulla sonda o qualcosa del genere, che lo sa, boh, le luci magari dell'ingresso della campagna, insomma cose del genere. Non riesco a capirlo, sì, infatti, e poi ti procuri un alimentatore di PC, di quelli in disuso, che vanno benissimo lo stesso, sono stabilizzati a certo punto, va bene lo stesso, nel baracchino va bene lo stesso, non c'è problema. Grazie proprio che sia dovuto a questo alimentatore cinese, non c'è da meravigliarsi, sicuramente sarà così. In effetti è così, sempre parlando però di switching, perché se prendi uno a trasformatore, cioè di quello a lamelle, allora non è così, allora è sempre abbastanza costoso. Switching, sì, lo sappiamo, con 50 euro ti compri un 30A tranquillamente, non c'è problema. Però io ce l'ho ad esempio il sorvento, perché se no io in parte l'ho attenuata, cioè ci ho messo la resistenza e l'ho abbassata la velocità della ventola e dunque si sente di meno, ma se tolgo la resistenza e la faccio girare a velocità normale, per carità, si sente. In effetti è così, che poi l'alimentatore tradizionale, quello a trasformatore, non c'è bisogno nemmeno di farlo raffreddare, intanto lo sappiamo benissimo, lo sai quanto me, e anche meglio di me che gli alimentatori, cioè il trasformatore, quando raggiunge la temperatura non va oltre, nemmeno se sai 24 ore su 24, per dire, no, ha una temperatura massima che riesce a raggiungere di calorie e poi si stabilizza lì, anche se utilizzi quello lì è una questione di consumo, no? I componenti è chiaro che hanno, anche loro hanno un periodo di lavoro e vanno andando e decadendo col passare degli anni, soprattutto per cui, ma il trasformatore, che è quello che manda calore, diciamo, si stabilisce, cioè si stabilizza a quella temperatura e non va mai oltre, per cui è così, perlomeno questa è la legge di Ohm. Poi tu lo sai meglio di me, stai ancora esercitando quel lavoro, ma io l'ho esercitato 50 anni fa, ma qualcosa ancora mi è rimasta in mente da capire. Ciao Giulio. Sei avanti? Danilo. Ciao Danilo, ben entrato, sono in compagnia di Antonio Reserva, adesso te lo mando avanti. Avanti a tu per Danilo, Sant'Orsola. Ciao Danilo, ben ascoltato. Sì, comunque giusto, volevo dire che comunque sì, il trasformatore dissipa calore, però diciamo che la maggior parte del calore viene dissipato soprattutto ai finali, anche se il trasformatore il suo effetto ce l'ha. Beh certo, ma è normale, no? E gli effetti di lavoro delle apparecchiature esiste sempre, quello non si può mai eliminare, non si potrà mai eliminare. È chiaro che i componenti più li fai lavorare e più ne subiscono le conseguenze, ma questo è normalissimo. Ma stavamo parlando di fatto di calore e basta, cioè di temperatura trasformatore, eccetera. Avanti Dani, stai usando l'ultimo arrivato, sì? Sì, sempre a lui. Ormai lo tengo questo qua. Comunque, se qualcuno è interessato al Galaxy Saturn, le dica qualcosa. Allora Dani, se sento sicuramente fare il tuo nome, così ti contatteranno, se qualcuno è interessato non c'è problema. Il Saturn è qua, ovvero o il tubo, Saturno tubo oppure Saturn Eco. No, il Saturn, il Galaxy Saturn proprio, quello con 120 canali. Ho capito, no, perché ci sono le versioni, quello da 100 watt e quello normale da 10-12 watt, una cosa del genere. Ho capito, quello normale, dai, ho capito. Bene. Se sento, non c'è problema. Casomai, se vuoi lanciare anche quanto chiedi, così se qualcuno è interessato lo faccio sapere, può darsi che ti contatti, ok? Anzi, bugia mia. Ah, 6 canali, 6 bande per 40 canali, 6x4, 240 canali c'ha. No, funziona bene, c'ha anche una buona modulazione, non è che è come questo qua, come modulazione, però già te lo ricordi come spingeva quello lì. Bello, non è perfetto in tutto, però wow. 200 euro lo sto dando col microfono originale. Chi è interessato mi faccia sapere. Ok Dani, se sento, guarda, non c'è problema, faccio subito il tuo nome, così ti contatteranno e chi è interessato e così se c'è da farlo a fare lo potete fare. Bene, sì, lo conosco bene il 240 euro, poi no, c'è anche quello del 271 canale, ma non cambia niente, è una banda in più, niente di particolare. Va benissimo comunque, lo conosco molto bene quel tipo di radio, anzi io ho sempre detto che per me il Saturn Echo, parlando della 27, parlo solo ed esclusivamente della 27, per me il Saturn Echo è il miglior apparecchio che c'è al di fuori di certi radio, tipo, tanto per fare un nome, così a caso, DAC, quello è un altro discorso, ma quello è valvolare, è un altro discorso. Va bene, avanti a Antonio Riserva. Giulio è entrato. Non vorrei contraddistinguermi, però io insieme a Saturn Echo ci abbraccio anche il Galaxy Pluto, che è uno dei miei amori eterni. Ma dice veicolare. Ma metto a veicolare o non veicolare? Ma puoi mettere tutti, ma parecchietto. Che allora, 50 anni fa venivano, fatto il controllo, se lo infilavi su quel naso, ho usato un eco che ci voleva l'armadio di tua mamma senza i vestiti per nasconderlo. Vabbè, se nasconderlo non si nasconde niente, quando non ha niente da nascondere. Sono rientrato comunque. Oh, Dani, per quella cifra deve essere perfetto. Cioè, se io dovessi comprare a 200 euro un Saturneco, deve essere come il giorno che è nato, ok? Perché per me il valore non è quello, assolutamente. Io mi ho fatto comprare uno ad una persona qua a Sassari, ed era immacolato a 150 euro. Ma immacolato vuol dire nuovo, non deve avere graffi, deve essere funzionante in tutti i suoi modi, non deve avere una imperfezione per venderlo a quella cifra, perché io te lo posso anche vendere, ma deve essere perfetto, non deve avere graffi, il frontale deve essere nuovo, non deve avere niente, deve essere nuovo e funzionante in tutte le sue cose, funzionante, vuol dire che non deve avere un difetto. Allora adesso ti mando una foto, così mi dici se secondo te è giusto quello che sto dicendo. Aspetta. Io ho fatto l'originale, io ho capito, anche io non posso vendere quello che vuoi, io non ho aperto una radio di genere a 300 euro perché io ho comprato un 140 dentro la scatola, è bollato, e c'ho tutto in originale e me lo sono fatto per me, non ero manco il decimale, te l'ho già detto, da una persona fidatissima, e me lo sono preso a volo e ho pagato 200 euro, cioè nel senso che se permetti preferisco comprare un 140 immacolato come quello che ho preso io, che non aveva niente, però 27 non è mai stato usato, ho dovuto fare un sacco di regolazioni per uscire come esce, che non è che vado a comprare un Galaxy a 200 euro, preferisco comprare un 140, non so se Giulio è d'accordo, a prescindere che poi Danilo possa vendere quello che vuole, però ripeto, per comprare un Galaxy io sono anche disposto a comprarlo o farlo vendere a Danilo, però deve essere una cosa nuova, nuova, bella, nuova, non deve avere nessun difetto, ma neanche un graffio, perché i graffi li odio nelle radio, vuol dire che uno non è stato attento quando graffia la radio. Vai Giulio. Ok, indubbiamente deve essere immacolato, certo, perché a 200 euro, se sai, è una radio di 30 anni fa quasi, per cui non può mantenere tutto questo valore, eccetera, però se la radio è in perfetto ordine, 200 euro già si può pagare, come stai dicendo tu. Per quanto riguarda poi la risposta che mi ha dato poco fa Antonio, il Pluto, sì, il Pluto, d'accordo, una bella radio, ma intanto il veicolare, però io intendevo come radio che ha tutto, doppio smitter, insomma ha tutto, ecco, eccetera eccetera. Beh, per il Pluto va benissimo, lo so che va benissimo, come va benissimo il Galaxy 2, come va benissimo il Connex e tanti altri, perché hanno sempre tutto lo stesso modulo. Se tu apri una radio, apri l'altro, ci sono gli stessi componenti, Antonio. Sì, lo so, ci sono gli stessi componenti che li abbiamo fatti dal 90 fino al 2010. Poi ripeto, tornando al discorso di Claudio, sì, dai, già stavo dicendo, ok, che l'ho venuto sì 300 euro, comunque a me, con la pelle che non interessava, e ho preso un 680, praticamente nuovo, circolato a 300 euro, e di domani mattina l'ho venuto a 420. Vabbè, io sono d'accordo con te. Dani, non mi serve mai il frontale, perché già con il frontale, allargando la foto, vedo dei graffi, solo nel frontale. Provo a farmi il coperchio, il case, a vedere. Sicuramente è graffiata. Non so, io potrei anche impegnarmi a fartela vendere, perché a me mi contatta tantissima gente, se ho radio, vintage, vavo, molto bella, e ho sempre detto quello che ha detto Giulio, per me è il miglior baracchino che ci sia in commercio per la 27, ho sempre un baracchino è per me, perciò già un prezzo così elevato è sempre un baracchino, cioè non è che abbia, è un baracchino, capito? Cioè, davanti al DAC ce ne vogliono due, uno sopra l'altro, per fare la altezza e la larghezza di quello che ho io, che non ha niente a che vedere con quello, perché se lo mangio in bellezza, in funzionamento e tutto. Comunque vediamo un po', mandami la foto del case da sopra, voglio vedere in che condizioni è, perché già davanti no, ho visto qualche graffio nel frontale, a parte lo Smith, vabbè, che ha detto che era cambiato. Va bene, ok, quando io dico anche questo, capito, perché tu lo cambi, lo smetti, però già hai fatto una riparazione, se io compro la radio non deve avere riparazioni, deve essere allo stato naturale. Se poi uno dice guarda c'è questo difetto, anziché dartelo 200 te lo do 180, allora è un'altra cosa, capito, perché quelle 20 euro sono scalate per fare una riparazione, ma che uno lo ripari e poi lo venda già riparato, sempre riparato è, quindi perde valore, deve essere sempre perfetto, capito? Sempre io ho le lampadine originali degli Smitter del DAC a Siluro, che le ho dovute ordinare da fuori perché nessuno ne aveva qua a Sassari. Vai Giulio. Ok, beh certo, infatti io pure ho evidenziato il DAC sempre rispetto a questa frequenza, per cui quello vabbè, è il numero uno e boh, lo sappiamo, però da quando il mondo è mondo, perlomeno da una trentina d'anni a questa parte, a livello di 27 come usiamo noi, per me il Galaxy Turbo, non il Galaxy Turbo, il Galaxy Saturn Echo è uno dei migliori, perché pure esiste anche il Turbo, ma il Turbo è 100 watt e lasciamolo stare quello, quella è già un'altra storia, per cui anche se la radio è sempre quella, però la potenza è di gran lunga superiore, certo, beh sì, chiaramente poi quando uno deve comprare, deve guardare, se a lui le conviene prende, se non prende, se non gli va non prende, poi fra compratore e acquirente, cioè tra venditore e acquirente ci saranno delle trattative e può darsi che si mettano d'accordo, per cui non c'è problema, questo si sa, uno lo spara un prezzo, poi l'altro controbatte, fanno lo sconto e così vedono se poi l'affare va in porto o meno, tutto lì. Bene, avanti Dani. Sì, infatti il prezzo di partenza è sempre quello, poi c'è già quella modifica che ho fatto, che devo metterlo nuovo, e qualcosina si scala, ovviamente. Sì, quello sì, come ha detto Claudio, infatti io l'ho detto, non è perfetto, qualche graffiettino ce l'ha l'usura come negli anni, non era dentro casa, chiuso dentro la scatola, però l'usura nel frontale già ce l'ha. E quello, vedi Dani, scusa se riprendo io di nuovo, vedi, quello è un handicap, perché finché l'usura è sul coperchio, sul nero eccetera, e quello è già diverso come valore. Quando il difetto è nel frontale, dimmi come fai tu a ripristinare il frontalino, diciamo che è impossibile. Se sul coperchio non c'è problema, uno lo smonta, le dà una rebrigatina, se lo fa riverniciare, ritorna immacolato, ma a livello però di frontalino, no? Tutto questo non lo puoi fare, perché sennò come fai? Fallisce tutto quello che c'è scritto, ad esempio, per cui non lo puoi fare, insomma, ecco, lì perde valore. Se si tratta di difetto nel frontale, quello perde valore sicuramente, come appunto stava dicendo anche Claudio. Avanti Antonio. Beh Antonio, si avesse avanti, sì, infatti sto dicendo quello, perché ripeto, io ho il DAC, chi l'ha visto diceva è chiaro, ma nessuna modifica, tutto l'ipomelli, tutto il case, le viti, le rondelle che sono particolari, sono concave, perché la vite deve essere praticamente all'interno della rondella, quindi tutto, cioè le maniglie sono in acciaio inossidabile, cromate, perfette, qualsiasi cosa è originale, gli interruttori suoi sono originali, insomma è tutto originale, non ho fatto mai nessuna riparazione, ho sostituito qualche lampadina agli strumenti e quando sono andato, perché si toglie il tappo, non deve smontare niente, si toglie il tappo dello strumento e la lampadina è saldata sotto lo strumento al siluro, e ho detto che questo lo trovo. Lo modifico, no, modificano e cambia già il suo valore. Allora mi sono messo alla ricerca, sono andato a Fusaro, a GBC niente, proprio Fusaro, Antonello me ne ha ordinato un pacchettino e ce l'ho bianche a saldare, tu figurati, sono a saldare, sono originali, quindi non ha mai avuto nessuna modifica. Quando tu vai a modificare una radio vintage di quelle dimensioni lì, di quel prezzo, perché è costata $400 quella radio, perde il suo valore, capito? Quando lo dai un collezionista dice no, ma questo non, quello non è originale, ma questo potenziometro è originale, e te la svalutano, capito? Per quello ti sto dicendo, te lo sto dicendo per quello, quindi deve essere perfetta, perfetta, per venderla col prezzo deve essere perfetta, perché cito un CB che è amante di quelle radio, e se ha un graffiettino non ti ne compareggia dubbio, ma un graffiettino, perché lui le cose le vuole perfette, come sono perfetto io, per carità, come sono perfetti tutti, capito Dani? Vediamo un po', se me la cercano, se a me non serve, perché non sono prima dove metterla, io già c'ho il DAC che mi occupa tantissimo spazio, però lo tengo a fianco praticamente alla sopra elevata che ho e mi fa da base, ogni tanto lo accendo e lo uso, ma mettermi altri di baracchini non ne metto perché non mi servono, ho queste e uso queste, ok? Riprendi Danilo e fai girare. Sì, già ti ho capito quello che stai dicendo. No, vabbè, la trattativa già c'è, ovviamente, perché è un modello un pochino vecchio anche, però già l'avete sentito, se volete lo faccio anche sentire adesso, la modulazione che ha. Tu pensa che dovrebbe uscire a 10 o 15 watt se non sbaglio, 15 se non sbaglio, e escono tutti, anche a portante fissa, escono tutti quei 10 watt a portante fissa senza niente. Se volete ve lo faccio anche sentire, ci metto un secondo a collegarlo. Collegalo, non è un problema, io guarda, c'è questa radio aperta da ieri che sto facendo dei controlli, sta andando benissimo adesso, non ho più fatto quell'effetto, sono sempre a 20 watt. Sono sempre a 20 watt, al vento è entrata in funzione, tutto regolare, non è calda, va bene così. Dai, faccelo sentire, vediamo un po' se è rientrato Antonio. Antonio, non cesti, riprendi tu Giulio, riprendi. Il segnale è sempre stabile a 9,10? Sì, stabile, c'è stabile a 9,10 adesso. Poc'anzi hai fatto un ritocchino, l'hai proprio centrato a 9,10 adesso, va benissimo, no, non c'è problema, va benissimo qua. No, ma la radio è immacolata, là, cioè, qua, è la tua radio, no, non si discute, il segnale, vabbè, questo è così, e basta, e poi se stai usando quei watt, cosa vuoi pretendere di più? A voglia, d'altronde tu lo sai, io rispetto a te sono, non dico molto, ma sono 200 metri più in basso, per cui anche quello influisce, qua, perché 225 è il livello di Sassari nel livello del mare, io sono a 135 metri, tu dove abiti tu sia a 400 metri, sicché gira gira siamo a 200 metri sotto, per cui va benissimo, segnale un segnalone, anzi non segnale, un segnalone, per cui va benissimo così qua, non c'è problema. Vediamo se è riuscito a cambiare la radio. Avanti Danilo. Sì, mi senti? Certo che ti sento, abbastanza bene anche. Allora, qua adesso c'ho la portante fissa senza premere niente. Ed è oltre i 10, anche oltre la lancetta W. Non vi so dire come sto uscendo perché solamente voi me lo sapete dire, però quando vado a modulare la lancetta oscilla anche oltre le strisce rosse, proprio al massimo qua. Sì, la modulazione è a 100%, mi stai dicendo, dalla oscillazione del tuo ago. Sì, va benissimo, non c'è problema. Anzi, ti dirò di più, io adesso non so quante watt stavi usando con l'altra radio di prima, e devo dire che stai arrivando con lo stesso segnale identico, senza nessuna differenza, Forse un tantino, ma un qualcosa, proprio uno nulla di meno, ma siamo lì, per cui no, quello poi ci vedrai tu. Va bene, avanti qua. Confermo, io sento un break in lontananza, non so chi sia, vediamo un po' di farlo passare, e confermo quello che ha detto Giulio o Danì. Stesso segnale, forse un pelino, ma un pelino proprio meno, ma stesso segnale, la radio è accettabilissima, visto che sto usando il microfono normale, buono, è 5, tipo solare 5 perfetta, quindi ottimo. Allora, rimane il fatto che deve essere un discorso che ti ho fatto io, non fare nessuna modifica, lasciare in originale, non mettere lampadine blu, niente, lasciare tutto così in originale, e possibilmente se deve cambiare quello smitter, praticamente cerca di metterglielo più simile possibile, perché altrimenti perdi la valutazione di quella radio. Vediamo un pochino chi è questo break in lontananza, avanti. Perché se non ti ha sentito Giulio, sta arrivando a me Santiago 5, quindi qualcosa hai che non sta andando bene, Uranio. Io sono abituato a sentirti con un segnalone, quindi segnale 5 mi sembravi molto più lontano, Giulio. Vediamo un po' se ti ha sentito Giulio, l'hai sentito, Uranio? Sì, l'ho sentito, ma con una radio non molto buona come radio. Il segnale più o meno oscilla fra il 6 e il 7, dai, siamo lì, però la radio non è buona come altre volte, Francesco, avanti, riprendi. Adesso è migliorato. Adesso ho migliorato qua ha migliorato il radio, il segnale va bene, è arrivato quello, praticamente intorno a 6 è modulato e arrivo quasi a 7, però la radio ha migliorato, diciamo che è diventata più pulita, ecco, un po' più pulita, evidentemente inizialmente o l'ha messo male oppure ha modulato da lontano, non lo so, tutto lì, ce lo dirà lui dopo, vediamo cosa dice Danilo, vai Dani per Uranio da Usero. Sì, già, aspetta un attimino che sta fischiando. Sì, già l'ho sentito. Prodo, l'ultimo passaggio che ha fatto, a me stavo oscillando di segnale tra 7 e 8. Un pochino alto di segnale. Però di radio se n'è sceso da questa parte. L'ho sentito un pochino disturbato. Tu mi senti, Uranio? Riprendi. Non si capisce tanto bene qua quando sta parlando. Aspetta, quando parla ti faccio una registrazione, aspetta. Non c'è bisogno, cosa c'è? L'NB inserito? No, sto dicendo a te. Dani. Dimmi qua. Cosa c'è nel 140? L'NB inserito o disinserito? NB1, NB2, quelli lì. Come ce li hai? In fuori e in dentro? No, no, sono disinseriti. Inserisci l'NB1, l'NB level tienilo al centro. Ok, adesso è inserito. L'NB level, il load rider, mettilo al centro. L'NB level, mettilo al centro. Ok, è tra la L e la L. Perfetto, parla Francesco di nuovo. No, fallo riparlare che no, non si è sentito tanto bene. Non senti bene? L'N1 devi inserirmi, non L2. L'NB1 non mi devi inserire, Dani. L'NB1 ve lo devi tenere al centro, prova a parlare Francesco. Dani. Vieni qua, ti stavo facendo il video. Comunque NB1 è premuto. NB level livello è tra L e la E. Poi NB2 è disattivato. Allora tiri il NB level al centro, disinserisci l'NB1, vediamo. Ok, disinserito. Prova a parlare Francesco, scusa ma è una prova che, perché se non ti sento bene c'è qualcosa che non va con la radio. Dani, devi sentire bene, perché guarda io lo sto ricevendo, ho montato dal 440 al 140, l'NB level io ce l'ho centrale, l'NB1 l'ho inserito, ma inserito, disinserito, Francesco arriva benissimo di radio, prova Francesco. Sì, ho capito che stava parlando della radio e poi non ho capito altro. E, boh, non lo so, cra. Ho provato anche a muoverlo un pochino, ma no, è sempre uguale. Non ha cambiato niente. No, non deve cambiare niente. Il 140 è un baracchino sintonia contigo. L'NBR serve per stabilizzare praticamente stringe a larga, tipo un filtro, ma un filtro non è. Quindi deve funzionare, perché io ce l'ho, funziona bene. Francesco, ti sei aggiustato mentre a Sassari Dimo cammin facendo, no, si aggiusta, tu sei entrato con un segnale di 5 che ti ho sentito solo io, la radio era pessima, però non so cosa è successo e ti sei messo a posto, non è che non ti abbiamo fatto entrare, non ti sentivano proprio, ti ho sentito solo io, capito? Adesso sei Santiago 7, evidentemente con la radio si è messa a posto, la radio è 5, è una abbastanza buona, ma prima eri basso di radio e basso di segnale, quindi non è che non ti hanno voluto far entrare, attenzione, non ti fare segmentare come fa qualcuno, chi c'è qua? Proprio effettivamente non ti hanno sentito, ti ho sentito solo io, ok? Vai Giulio. Ok, sì, anch'io confermo che si è messo a posto, adesso è Santiago 7 e la radio è migliorata notevolmente, veramente a grande, per cui non lo so, evidentemente o era fredda la radio, non lo so come è partito, evidentemente è partito male, ma adesso va benissimo. Cioè, adesso stai arrivando bene, non c'è problema, anche la radio adesso è ultima, non so come mi stai ascoltando tu, però io adesso ti sento bene. Santiago 7 e la radio 5 da parte mia, poi vedi tu, avanti Francesco. Shake up, RSL. No, no, sta arrivando bene adesso, ma inizialmente eri molto basso, 5, adesso sei tra 7 e 8 e la radio è perfetta, Francia, quindi sicuramente si è aggiustata nel momento in cui hai iniziato a parlare, perché prima non, con lui, non era così. Assolutamente, quando uno becca deve entrare, non è che non ci ha avuto per entrare. Sì, ho visto, ho ascoltato il video, un po' strana quella radio, un po' strana. Vediamo, non lo so, io ce l'ho, lo ascolto benissimo. Usando il mic esterno. Tieni lo rate lift shift centrale sempre, Daniele. Sempre tutto al centro, tutto chiuso, non mettere niente, perché quella radio è un HF, ma per me è un baracchino sintonia continua, anche se è funzionale, perfetto, è un trattore, non crea tanti problemi rispetto al 440, è un tipo un 430, io non ho mai dato il 430, ce l'ho 10 anni e non l'ho mai lasciato a piedi, mai fatto nessuna riparazione come il 440, che ha detto solo il frequenzimetro e basta, perché si era bruciato il decimale. Avanti Giulia, riprendi? Sì, ok, riprendo io, sì, dai, però vi devo lasciare, mi dispiace, ma vi devo lasciare, è arrivato mio genero, dunque dovrò scendere giù a fare quattro chiacchiere con lui. Ok, grazie della chiacchierata a tutti, ciao Claudio, grazie, ci sentiamo domani eventualmente, ciao Danilo, ripeto, quel Saturno va bene, non c'è problema, va bene nel radio di modulazione, va benissimo, sia di segnale che di radio. Anche tu Francesco stai andando bene adesso, Santiago 7 e Radio 5, per cui tutto a posto, non c'è problema. Io vi saluto tutti e tre, vi ringrazio per la chiacchierata e ascolto il vostro finalino e dopodiché chiudo, ok? Avanti Danilo. Sì, ciao Giulio, ci sentiamo alle prossime. No, comunque quando ho fatto il break, l'amico di Ugiro, io l'ho sentito basso, però l'ho sentito, poi durante il tempo che ho iniziato a parlare l'ho sentito sempre di meno, sempre più disturbato, infatti ti ho fatto sentire anche il video qua. Di segnale comunque era sempre 6-7, poi è iniziato a salire a 8 e niente, devo vedere cosa, magari, ma sai perché si sente probabile, secondo me, perché sono sotto io e c'ho tutta quanta la città davanti qua, probabile anche per quello. Tanto saluto Giulio, ciao Giulio, un abbraccio, a presto e cordialità e buon fine domenica, facciamo salutare Francesco, vai Francesco. Ok, di nuovo, ciao a tutti, chiudo, ciao. Ok, vai, va bene. No, ma io ho sentito, mentre ha mollato Giulio, l'ho sentito, evidentemente non c'era molto spazio, quindi non riuscivo a passare, perché il segnale era basso. Poi, cammin facendo, si è aggiustato. Adesso il segnale è tra 7 e 8, e la radio 5 è perfetta. Va bene. Dani, non so cosa dirti, quella radio... Allora, di segnale lo sento, ma... Con la radio un po' così, bisogna metterla sotto i ferri, perché... C'è qualcosa di non perfetto. Non capisco perché ti arriva così, Francesco, io lo sento benissimo, sia con 430, con 440, con 140, lo sento bene, io Comotto, ce li ho tutte e tre accese, Comotto, lo sento benissimo. A te ho visto che distorce la radio, ma l'NB level... basta che lo metti al centro e tieni l'NB1 inserito, in pratica sì, però dovresti sentirlo bene, però sentendolo così rimango un po' perplesso. Devo agganciare a Fabrizio, l'unica per installarmela. Non so neanche cosa abbia questa radio, perché quello là mi aveva detto che ce l'aveva ancora perfetta, non so cosa dire. Ascoltando la registrazione mi sento gracchiante anch'io, tante registrazioni che mi fanno sentire la mia voce molto limpida, quindi non lo so, beh, è chiaro che non è una cosa che puoi metterti a toccare. sotto strumentazione, attaccare l'oscilloscopio, vedere se in isofrequenza, se tutto, perché può essere anche quello lì, capito? Magari è appena spostata e senti la voce gracchiante. È molto importante la centratura, soprattutto di questo tipo di radio, capito? Io, a me mi è capitato l'altro giorno col baracchino, un vintage di 30 anni che al clarifer, io lo tenevo al centro, proprio già nel dottor Rum si è accorto, mi ha detto che ti sento leggermente spostato. La prima cosa nel baracchino, già, come fai se è spostato? Ti sento spostato. Mi ha detto prova a toccare il clarifer, ma è leggermente spostato a sinistra, non lo metto al centro, l'ho messo al centro, perfetto. Capito? A volte anche con l'esperienza che hai può capitare che ti sfugge qualche cosettina e quindi non sapevo neanche che funzionasse a quei livelli, clarifer, figurati tu, io baracchini ne ho tanti ma non li uso, ma poi sono, stavo usando uno giusto per provarlo e quindi è così. Va bene, allora io vi lascio lo stesso, è domenica oggi, quindi è arrivata mia figlia poc'anzi, ancora non sono andato a salutare, quindi vi saluto, grazie delle due chiacchiere, ciao Dani, ci aggiorniamo telefonicamente, dai, ti faccio sapere per quel Satur, se puoi contatta quella persona e spiegale più o meno com'è la situazione, sicuramente ti dice che magari non è esattamente in isofrequenza ed è per quello che ti crea questo problema, perché mi sono sentito gracchiante anch'io nella registrazione che mi hai mandato. Ciao Francesco, ciao a chiunque sia in ascolto sul canale 20, buon fine domenica a tutti, a presto, magari anche a più tardi se ci siete, dai. Il cambio per Francesco, ascolto i finali e poi chiudo, ok? Ciao a tutti. Già ci sentiamo per quello, per il resto. Ok, sì Francesco, ti sento, ma ti sento disturbato, ti sento di segnale bello alto, di 7-8 di segnale, però ti sento disturbato di voce. Ecco, ho fatto sentire anche la registrazione a Claudio, anche lui ha detto che c'è qualche cosa in questa radio. Ti sento disturbato e non so cosa dirti. Sono le 7:05, adesso vado, mi preparo per domani. Abbracci, nuovi ci sentiamo un altro momento. Ciao Francesco, ciao Claudio, ciao a chi sta ascoltando e non è ancora entrato. Alle prossime, ciao.